quattro stelle imbarcate su un bastimento indicano dalla prua il firmamento. Nella stiva ballano il tango sul pavimento. Sono quattro pacifisti, ma sembrano 400. Quando la notte gli regala una luna piena, abbracciano tutta la costa con la schiena. Per merenda si mangiano un pezzo di buccia, senza armi né armamenti, ma con il sole sempre in faccia. E dei mondi che nel mondo rende i mondi, se ne fregano altamente dei loro inganni, né un'agenda né una foto da incorniciare. A loro basta arrivare a riva, seguendo il loro cuore, contro chi vuole spostare il baricentro del rispetto della dignità in tutto il mondo. Loro danno a tutto campo il loro sguardo, a volte la vita, a volte restano intrappolati in un ingorgo. Si avvicinano centrando l'epicentro, e da lì fanno i cronisti, cambiano il mondo. Sono scudi gli occhi puntati contro i fucili, e mettono il dito nella piaga a piedi nudi sopra le braci. Vanno liberi nel deserto in mezzo al vento, spolverano le coscienze, seminano nel tempo. Umani, restiamo umani, diamoci dentro, che ogni giusto avrà il suo giusto, il suo posto in questo mondo.